Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telespro. Buon pomeriggio da Gigi Telespro, siete in contatto ancora una volta con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, e oggi vorrei dedicare questa puntata ai crooners, perché mi è arrivata una bellissima mail scritta da giovanissimi crooners napoletani che mi chiedono informazioni sul genere. Sì, hanno scritto una bella mail al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio.it, e quindi oggi rispondiamo con questa puntata a questa richiesta di questi carissimi appassionati di musica. Allora, cerchiamo di capire chi è il crooner. Il crooner è un cantante che interpreta canzoni melodiche in chiave confidenziale. To croon in inglese significa la lettera canticchiare, praticamente quello che facciamo tutti quando siamo sotto la doccia. Crooner, quindi, prima dell'avvento del microfono, era un appellativo quasi offensivo per un cantante professionista. Lo stile del crooner è nato quindi negli Stati Uniti dopo l'avvento del microfono. Sì, perché la tradizione imponeva al cantante un'impostazione di voce di tipo classico, da conservatorio, una voce sonora, potente, squillante, tale da poter giungere chiaramente fino alle ultime file dei teatri. Quindi l'utilizzo del microfono rende meno indispensabile la potenza vocale e permette così al cantante finalmente l'utilizzo di una tecnica sussurrata con una voce naturale. Il crooning, quindi, miei cari amici, non è un genere musicale specifico, ma piuttosto uno stile e una tecnica di canto che si fonde con il jazz e con un certo tipo di musica ballabile fino al pop contemporaneo. Un altro elemento distintivo di questo stile, perlomeno in origine, era la presenza sonora della big band, di un'orchestra, anche se priva della sezione di archi. Bing Crosby è stato uno dei prototipi dei crooner, anche se il papà dei crooner contemporanei, un vero e proprio modello, è stato Nat King Cole, ottimo pianista, eccellente musicista, molto amato dai suoi colleghi musicisti, con la sua voce calda, elegante nello scandire le melodie dei grandi compositori dell'epoca, una voce che aveva tutto il sapore delle 60 sigarette al mentolo che fumava anche prima delle esibizioni. Nat King Cole lo apprezziamo qui al Soundcheck di Radio 24 in questa prima puntata dedicata ai crooners, con un classico del suo repertorio intitolato Dance Ballerina Dance. Live and learn, and love is gone, ballerina gone. Son, with your career, you can't afford a backward glance. Dance on and on. A thousand people here have come to see the show. As round and round you go, ballerina dance. Dance. Ladies and gentlemen, you're listening to Soundcheck. Sun, whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you. Più popolare del Novecento, Frank Sinatra, qui al Soundcheck con un classico di Cole Porter intitolato Night and Day. Frank Sinatra non ha mai amato l'appellativo crooner, proprio per i motivi che spiegavamo all'inizio, perché il crooner in origine era uno che canticchia, invece Frank Sinatra col tempo è diventato The Voice, la voce del songbook americano, le grandi composizioni scritte da George Gershwin, Cole Porter, Roger Seart e tutti gli altri compositori di quel periodo. Frank Sinatra chiude la prima parte del Soundcheck dedicato ai crooners. Sound check. Il suono della musica. Sì, se il cane è il migliore amico dell'uomo, abbiamo capito oggi in questa puntata del Soundcheck che il microfono è il miglior amico del cantante, quindi noi potremmo definire il corso della vocalità in un periodo AM, avanti microfono, e un periodo DM, dopo microfono. Naturalmente del periodo AM non abbiamo nessun supporto fonografico, perché naturalmente senza il microfono non si poteva registrare nulla. Il microfono è stato importante anche perché ha permesso la diffusione della musica e delle voci, quindi attraverso le prime radio. Che cos'è un microfono? Un microfono è un trasduttore di tipo elettromeccanico in grado di convertire le onde di pressione sonora in segnali elettrici. Una cosa un po' complessa, però esistono diversi tipi di microfono che basano il proprio funzionamento su differenti tecnologie e metodi di conversione. Il primo microfono era definito microfono a carbonio. Utilizzava quindi nella capsula dei piccoli granelli di carbone, come i microfoni radiofonici, quelli stile anni 30 che si vedono nei vecchi film, ma anche le capsule microfoniche adottate per i telefoni a cornetta, che sicuramente ricorderete, in uso fino agli anni 80. Agitando tra le dita la capsula o la cornetta del telefono, era percepibile il movimento dei granuli simili a zucchero. Il microfono è quindi uno strumento indispensabile del cantante, e ci sono varie tecniche di utilizzo di questo strepitoso strumento. Un modello da seguire anche per l'utilizzo del microfono è stato un eccellente vocalist, un eccellente crooner, il signor Tony Bennett, che non ha mai avuto il successo di Frank Sinatra, ma ancora oggi è in attività e continua a sfornare bellissime produzioni. Voce calda, anche lui molto elegante, ha cantato di tutto, e qui ascoltiamo Tony Bennett con un piccolo organico. Sì, perché se il suono del crooner era legato anche agli arrangiamenti tipici delle big band, nel tempo l'ambiente ideale per l'esibizione dei crooner era diventato il locale di piccole dimensioni, quindi piccole formazioni che proponevano musica in questi club con i tavolini e le luci suffuse, una piccola pista da ballo, e in questi locali quindi l'accompagnamento più congeniale era quello tipico del trio di jazz, pianoforte, contrabbasso e batteria. Un esempio, eccolo qui, Tony Bennett in un brano che ha portato molta fortuna a Nina Simone, ovvero My Baby Just Cares For Me. Tony Bennett al Soundcheck di Radio 24. Jeff Chandler is not her style, and Liberace's smile is something she just can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, she answers my prayers for, my baby just cares for little old me. At least that's what she tells me anyway. Every day, every day, every day, every day, I have the blues. Qui la vocalità classica tipica del crooner Tony Bennett si confronta con quella più soul di Stevie Wonder, un altro campione della voce di tutti i tempi, in un classico intitolato Every Day I Have the Blues. In questa puntata dedicata ai crooner non può mancare un'altra voce meravigliosa, un grande maestro, Mel Tormé, un formidabile improvvisatore vocale. Io vi consiglio di andare su YouTube, di cliccare Mel Tormé e la Fitzgerald Grammy Award per gustare stare un momento storico per la musica, quando Mel Tormé e Ella Fitzgerald, presentando le nomination ai Grammy Award del jazz del 1975, danno vita a un momento estemporaneo di improvvisazione vocale tipico del jazz che ha fatto scalpore. Mel Tormé qui lo gustiamo in un classico di Irving Berlin intitolato Pudding on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Pudding on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Pudding on the Ritz. Soundcheck, il suono della musica. Puntata quella di oggi del Soundcheck di Radio 24 dedicata ai crooners, per rispondere a una mail molto simpatica che mi è stata inviata da crooners giovanissimi napoletani che hanno scritto all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it per raccontare proprio le vicende dei crooners. Abbiamo parlato di Nat King Cole, Frank Sinatra, abbiamo raccontato anche di Bing Crosby, abbiamo ascoltato Tony Bennett, Mel Tormé e arriva adesso un crooner non molto famoso da noi, ma negli Stati Uniti anche lui ha avuto il suo bel successo con i suoi concerti e la sua produzione discografica. Questo signore si chiamava Bobby Darin, anche lui una bella voce educata, quindi non canticchiava ma cantava nel vero senso della parola, e qui lo ascoltiamo in I'm Beginning to See the Lights, tratto dal repertorio di Duke Ellington. When you're back in my arms, oh, forget about time. You'll be begging for more. We'll be stopping the clock. Feel the earth rock. Allora, se vi siete avvicinati allo stile tipico dei crooners apprezzando Michael Bublé, il crooner contemporaneo per eccellenza, non possono però mancare nella vostra personale discoteca o nei vostri lettori MP3 le canzoni di Nat King Cole, Bing Crosby, Frank Sinatra, Tony Bennett, Mel Tormé, Bobby Darin, ma neanche questa perla di Mark Murphy, album intitolato Ra, dal quale abbiamo ascoltato Stopping the Clock. Chiudiamo questa puntata dedicata ai crooners, domani ci sarà la seconda parte con i crooners contemporanei con Diana Krall, sì, perché i crooners non sono soltanto dei maschietti ma anche delle belle ragazze. Diana Krall si avvicina al pianoforte proponendo in trio, quindi con il sound più vicino a Nat King Cole, il repertorio classico della canzone americana in giro per gli Stati Uniti, fino ad approdare ad una grande produzione, quella diretta dal maestro della produzione discografica Tommy Lee Puma, che le mette a disposizione grandi organici e favolose big band. Qui Diana Krall chiude il soundcheck di oggi con un brano scritto dal maestro Burt Bacharach, The Look of Love, e noi ci diamo appuntamento a domani sempre alle 15:20, quindi a tutti voi buona giornata, buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telesforo con Diana Krall. Soundcheck. Il suono della musica.